Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Lo stormo di Stealth ha lanciato un attacco di missili Sidewinder nel cuore dello sciame. Risultato? Ogni colpo l'ha fatto ingrandire. E ora questo sciame dov'è diretto? Ovunque. Avete sentito un frame del film Ultimatum alla Terra di Keanu Reeves, che è un film di fantascienza abbastanza, diciamo, drammatico, abbastanza esagerato, ma che però mostra il concetto delle nanomacchine e fa capire anche, fa intuire, pur con tutti i limiti di Hollywood, che cosa sono le nanotecnologie e soprattutto uno dei concetti delle nanotecnologie avveniristico, che sono le utility fog, cioè una nuvola di microscopici robot connessi fra loro che cambierebbero forma e proprietà a seconda delle necessità, e questa è un'astrazione massima del mondo delle nanotecnologie. Oggi però parliamo di nanotecnologie in ambito industriale e cerchiamo di capire come questa rivoluzione sta cambiando e cambierà l'industria. Perché? Perché i materiali ridotti allo stato nanometrico hanno proprietà completamente diverse e proprietà più potenti. Questo consente alle aziende che se ne servono di essere maggiormente competitive ed efficaci. Di tutto ciò ne parliamo con il professor Alberto Cigada, che insegna scienza e tecnologia dei materiali al Politecnico di Milano ed è uno dei massimi esperti di questo settore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, nanotecnologie nell'industria, professore. Sì, diciamo che sicuramente le nanotecnologie possono trovare già oggi importanti applicazioni in questo campo e credo che ci potranno consentire sicuramente di fare dei grossi passi avanti, anzi molte nanotecnologie in qualche modo sono già presenti. Dicono che il mercato sia 3 trilioni, cioè 3 mila miliardi di dollari già ora, cioè nel 2017 sono le stime di Luxor Research. Sì, assolutamente, assolutamente. Soprattutto nel mondo americano queste stime sono fatte con molta attenzione e sicuramente portano a cifre di questo tipo. Ecco, i nanomateriali sono più potenti, ad esempio l'alluminio ridotto allo stato nanometrico può diventare addirittura un combustibile. Assolutamente sì, credo qualche piccolo esempio ce lo può fare capire. Proviamo solo a pensare quanto siano le dimensioni, gli atomi presenti all'interno di una dimensione di tipo nanometrico. Facciamo questo esempio, credo che sia abbastanza semplice per tutti tenere questi conti. Se noi, le dimensioni di un atomo sono circa di un angstrom, che vuol dire un decimo di nanometro. Conseguentemente all'interno di un nanometro esistono 10 per 10 per 10 mille atomi. Di questi mille atomi, 600 sono atomi di superficie, perché ogni superficie di ogni cubetto elementare ci sono 10 per 10, 100 atomi, 6 superfici del cubetto. Certamente. Per cui in una particella di tipo nanometrico più della metà degli atomi sono atomi di superficie, che pertanto reagiscono in modo diverso rispetto agli atomi di massa. Questo dà proprietà più potenti, per assolutamente esempio. Sì. L'alluminio, per esempio, si brucia. L'alluminio si ossida normalmente. Tant'è che tutti i nostri serramenti devono il fatto di resistere alla corrosione al fatto che sono rivestiti di un film di ossido di alluminio. Ma se si ossidano gli atomi di superficie non succede nulla, perché gli atomi di superficie in un serramento sono uno ogni 100 milioni di miliardi. Certo. Per dire. Se però la metà degli atomi sono atomi di superficie, la somma di un numero praticamente infinito di reazioni di ossidazione fa sì che la reazione diventi esplosiva e l'alluminio in particelle nanometriche può essere utilizzato come combustibile per razzi, ad esempio. Insomma, i nanomateriali sono più plastici, più potenti, più capaci e quindi possono cambiare lo scenario competitivo della manifattura. Questo è vero in particolare per il grafene. Ma ne parliamo nella seconda parte di Fabbrica 2.4. Adesso avvisi sul traffico e pubblicità. Fabbrica 2.4. È al corrente di un imminente attacco contro il pianeta Terra? L'avete sentito? Sentito cosa? A Ancora un frame di Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves. Si parla in questo film, come anche in questa puntata di Fabbrica 2.4, di nanotecnologie, e ne stavamo parlando con il professor Alberto Cigada, che insegna scienze e tecnologie dei materiali al Politecnico di Milano ed è particolarmente esperto di come queste cose si possono applicare all'industria. Ecco. L'industria italiana è sconvolta, sconquassata, come tutta l'industria mondiale, da quattro grandi rivoluzioni tecnologiche parallele. La prima è quella dell'Industria 4.0, alla quale abbiamo dedicato tante puntate di questo programma. La seconda è quella della manifattura additiva. Poi c'è la robotica avanzata e quindi, quarto punto, abbiamo le nanotecnologie. Sono rivoluzioni parallele con le quali tutte le imprese si devono confrontare e devono adeguare il loro modello di business, se no saranno sbalzate via. E tutto questo nella storia dell'industria, nella storia economica, è accaduto di rado che si cambiassero i materiali, che si cambiasse il modo di lavorare, che si cambiassero le macchine, che si cambiasse tutto. Bisogna fare i conti con queste cose perché, ad esempio, le nanotecnologie permettono di produrre nanomateriali potentissimi se i concorrenti delle aziende in questione questi nanomateriali li hanno, le aziende in questione non li hanno, le aziende che non li hanno saranno fuori. Ho detto bene, professore? Assolutamente sì. Ecco, parliamo un attimo del grafene e della sua possibilità di impiego nel mondo dell'industria. Ma faccio un esempio anche abbastanza semplice. Il grafene ha moltissime potenziali applicazioni praticamente in tutti i campi, ma faccio un esempio molto semplice. Oggi come materiale si considera come materiale meglio prestazionale, più prestazionale, i compositi rinforzati con fibre lunghe di carbonio. Uh-huh. Però questi materiali hanno il difetto di non poter essere processati con le normali tecnologie. Praticamente si realizza una Formula 1 con un'operazione quasi sartoriale, proprio perché non si possono usare le tradizionali tecniche di lavorazione dei materiali polimerici. Viceversa, se aggiungiamo delle nanoparticelle del grafene, che ovviamente ha dimensioni nanometriche, all'interno di un materiale polimerico, riusciamo da un lato ad aggiungere una grande quantità di carica, dall'altro manteniamo le possibilità di processare questi materiali per produrre oggetti comuni come i bicchieri, come le bottiglie e quant'altro. E quali sono i vantaggi per il produttore? Aumentare di molto le caratteristiche meccaniche, pertanto ridurre gli spessori, avere materiali molto più prestazionali, per esempio, grazie a questi nuovi materiali compositi che si sta cercando di sviluppare. Che sono anche materiali autopulenti e materiali che possono purificare l'aria dai batteri. Qui introduciamo dei concetti diversi. Uno dei vantaggi grossi delle nanotecnologie è quella di poter dare ai materiali delle funzionalità che altrimenti questi materiali non hanno, andando a modificare solo la superficie dei materiali o depositando dei film di spessore nanometrico e pertanto invisibili sui materiali. Vorrei mandare in onda una scheda che ho preparato sulle nanotecnologie in ambito industriale. Le nanotecnologie avranno un impatto enorme su tutti i tipi di manifattura. Grazie ai materiali nanotecnologici sarà infatti possibile costruire prodotti più potenti e più economici. I materiali su scala nanometrica presentano proprietà particolari. Per esempio, la sommatoria di un numero piccolissimo di forze di attrazione supera la forza di gravità. È proprio questo a permettere ad un animale come il geco di camminare sul soffitto, grazie cioè alla nanostrutturazione dei suoi polpastrelli. Per la stessa motivazione, le foglie di loto risultano essere idrofobiche e l'acqua rotola su di esse senza bagnarle. L'uomo è riuscito a riprodurre questa nanostrutturazione e a sfruttarla. Su questo si basano le nanotecnologie e la loro applicazione industriale. La spinta verso le nanotecnologie nasce da tre fattori: la necessità di miniaturizzare, la possibilità di rapportarsi in modo selettivo con strutture di dimensioni molto piccole con cui prima non riuscivamo a interagire, la possibilità di sfruttare le nuove proprietà della materia strutturata a livello nanometrico. Miniaturizzare vuol dire essenzialmente tre cose: aumentare la potenza, ridurre i consumi, aprire nuovi mercati. Esempi noti sono le potenti memorie e batterie dei prodotti Apple. L'ultima frontiera su cui infuria una battaglia che vede coinvolti stati e colossi dell'industria è il grafene, un materiale costituito da uno strato spesso quanto un atomo. È il materiale più sottile che esista, super leggero, denso, trasparente, resistente allo stress fino a 1000 volte più dell'acciaio. L'Unione Europea ha stanziato 1 miliardo di euro per svilupparne la ricerca, mentre i giganti dell'elettronica si contendono i brevetti. Uno dei molti utilizzi rivoluzionari sarà nel campo delle batterie. È molto probabile che sarà proprio il grafene a rendere possibile la diffusione di massa delle auto elettriche, grazie a batterie che ne garantiranno elevata autonomia ed efficienza energetica. Rieccoci in linea con il professor Cigada del Politecnico di Milano, che ci spiegava alcune applicazioni di materiali che hanno contenuti a loro volta altri materiali con nanotecnologie. Dicevo che si possono dare delle funzionalità nuove anche ai materiali tradizionali. Facciamo qualche esempio. Noi, andando a rivestire, per esempio, con film di biossido di titanio, un edificio, un grattacielo ricoperto di vetri e quant'altro, riusciamo a rendere la superficie sia lapidea sia dei vetri, da un certo punto di vista, idrofilici, per cui l'acqua, quando li bagna in qualche modo, fa un film continuo, sia fotocatalitici. Che cosa vuol dire, per esempio, fotocatalitico? Tutti noi conosciamo la marmitta catalitica della nostra automobile, che è in grado di ossidare tutti i prodotti di combustione, per cui oggi provate a andare dietro a un'auto d'epoca, immaginate quanto puzza. Certo. Ecco, oggi questo non avviene perché c'è una marmitta catalitica. La stessa cosa possiamo fare rivestendo un vetro, una facciata, con un film sottilissimo di biossido di titanio e attivando la catalisi non con la temperatura come avviene in una marmitta, ma con la luce del sole o comunque con un'illuminazione UV. In questo modo la superficie riesce da un lato a essere autopulente, dall'altro a ossidare le specie chimiche. Faccio un altro esempio abbastanza interessante. Facciamo degli esempi di realizzazioni industriali concrete. Lei mi faceva dei nomi come Whirlpool o Candy. Sì, diciamo questo. Tutti noi sappiamo che il problema della contaminazione batterica è un problema importante. Questo avviene sia negli ospedali, ma in qualche modo anche nel frigorifero di casa nostra o nei nostri impianti di climatizzazione. Quando noi filtriamo l'aria, i batteri presenti nell'aria vengono bloccati sul filtro e sul filtro proliferano, tanto da diventare fonte di inquinamento batterico. Tramite dei trattamenti nanotecnologici siamo in grado di continuare a bloccare i filtri, ma di disattivare i batteri in modo tale da... E questo chi lo fa? Candy, Whirlpool, quale... Allora, ricerche di questo tipo le abbiamo sviluppate anche all'interno del mio dipartimento. Oggi ci sono delle aziende che stanno già usando questi trattamenti, tra cui Candy, tra cui potenzialmente Whirlpool, anche questo Vortice, cambia lo scenario eccetera. Competitivo del mondo degli elettrodomestici. Invece... Il grafene ha grandi proprietà potenziali di immagazzinamento dell'energia e anche di immagazzinamento dei dati. Tanto che si pensa di arrivare con il grafene a delle super batterie, e i tecnici della Samsung già hanno sviluppato un concept di batteria che invece di durare 12 ore ne dura 21. Oltretutto si possono fare anche le batterie per le macchine elettriche, giusto? È chiarissimo, questo ci consentirà di non usare più i combustibili fossili per l'autotrazione e sarà sicuramente un enorme passo avanti per evitare le emissioni di CO2. Questa è la grande speranza che abbiamo. Senta, ma gli imprenditori che ci ascoltano, che cosa devono fare per usare bene e in tempo le nanotecnologie? Collaborare con l'università? Io uso sempre una frase quando parlo con investitori e industrie, che è: l'importante è non svegliarsi una mattina e scoprire che il mondo è cambiato senza che ce ne siamo accorti. E questo è un fatto che effettivamente può avvenire. La ricerca sta facendo dei grossi passi avanti in ambito accademico e universitario. La ricerca anche in Italia è molto avanzata. L'industria non sa neanche che l'università sta sviluppando tecnologie che loro possono usare. Per trasferire tecnologie dal mondo dell'università al mondo delle aziende, lei ha fatto uno spin-off universitario che ha chiamato Next Materials. Esattamente. L'obiettivo di questo spin-off è quello di individuare all'interno del mondo accademico, Politecnico di Milano, ma più in generale di tutte le università italiane, quelle che sono le tecnologie innovative e anche nanotecnologie più interessanti e promettenti, per poter in questo modo sviluppare la parte di ricerca e sviluppo necessaria. E comunque prima chi di ci ascolta dove lo trova? www.nextmaterials.it. Arrivederci alla prossima puntata, sabato prossimo, ore 14. Grazie professore. A lei, grazie a tutti gli ascoltatori.